Ah, MB30, no, io ho le MB40. Non ha frequenzimetro questo. No. A te, no, non mi sto ricordando, aspetta, ti mando la foto. Ma perché non lo provi, che magari spinge più di questo? Perché praticamente non è scritto bene un attacco a 6 pezzini, una cosa del genere, e praticamente quello non ha il microfono, infatti sto cercando un microfono per quello. Microfono, quello che ho dato a Giovanni, ne avevo due di microfoni, uno amplificato l'M93 con l'attacco autopoli, anche se sono utilizzati solo 5 fili, e più il suo originale gli ho dato. Infatti adesso dobbiamo andare a questo, questo è un microfono praticamente, sto portando praticamente uno che ce l'abbia, il microfono che lo usa, perché questo è questo bello. Io c'ho un microfono amplificato. Il Proxer, quello spinge, eh? Cosa potrei fare? Praticamente comprarmi un microfono apposta per lui e me l'ho passato il topone. Ma Riccardi, che radio stai usando? Il Colt, ma sento qualcuno sotto. C'è un sacco di disturbo atmosferico, c'è. Ok, facciamo un'altra chiamata generale, se c'è qualcuno su 10, in compagnia Roberto, Eugenio da Porto Torres e Riccardino. Avanti che vuole entrare. Break. Avanti il break. Cavino da queste parti. Saluto Roberto, Riccardino, sentito, poi non so chi altro. Ciao Gavi, cioè ho detto Riccardino, Eugenio e io ci siamo, ma sei più basso del solito, Gavi, o ha cambiato radio? No, sono qua da Massimiliano, sto trasmettendo da questo apparato. Ah, per quello stavo dicendo, perché eri più forte, ok. Saluto anche a Massimiliano, se all'ascolto e tiragli le orecchie. Mi sembrava strano questo segnalone. Ehi, ciao Eugenio, ciao ciao, saluto a tutti comunque. Ehi, ciao, la buonasera. Ciao Gavi. E beh Riccardì, cosa stai facendo di bello? Niente, stavo parlando, intanto disegnando, aspettando, facendo due chiacchiere, stavo cercando disperatamente un microfono ad autopoli per il mobile con MB30. Ho capito, ho capito. E beh, non c'è nessuno che ce l'ha questo microfono. Sì che ce l'abbiamo, già glielo posso dare anche io, ne ho prestato due a cosa, a Giovanni Bracco, però Riccardì, se vuoi un consiglio da amico, tu trovati il connettore autopulli e te lo fai a 4, in modo di fare l'adattatore come ho fatto io, e te lo utilizzi con tutti gli altri microfoni, a 4 pulli. Ah, quindi praticamente al barettino dovrei togliermi l'attacco autopulli e mi metto da un altro a 4 pulli. No, non dico a fare così, se fai così è anche meglio, così te lo metti a 4. Però perdi l'up down, il cambio canali. Mi conviene lasciare quello che c'è, il pannello, quello attaccato al baracchino, e lo lasci com'è, e ti fai un adattatore, ti fai fare un adattatore da 8 poli, lo trasformi a 4 poli, in modo che puoi attaccare qualunque microfono degli altri apparati. Ho capito, perché quello è bello, lei sa la cosa. Sembra, ma sei sicuro che è MB più 30, non è MB più 40, MB più 40. Non capisco cosa cambia dal 40, a meno che quello ci abbia 30 canali. Quanti canali c'ha quel baracchino? 40. Boh, che strano, è identico all'MB40. Io l'hai visto che l'ha mandato anche a te? Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Ma cos'è un superpotere? Come hai fatto a vederlo se non mi dà la stessa che l'hai visualizzato? Cosa? Il baracchino quando mi hai mandato le foto della stazione base. Ti ho mandato il mobico. Ma adesso? Adesso. Sì, avanti. Guardo. Natalino, ascolta, io ho il baracchino che è autopuli, ho un M93 già intestato a autopuli, magari come lo entra va bene. Ma per i casini non sai? Sì. E passiamolo in officina e glielo facciamo, glielo presti provvisoriamente, così lo prova. Ma io ho l'MB più 4, gli ho detto, per l'altro baracchino, finché non le arriva glielo do, ho l'MB più 5, ne ha giù di microfono. E anche io ne ho due di MB più 4, se per quello. Via col telefono. Praticamente questo mi ha detto che sono amplificato, aveva quello con la batteria, questo Mobicop. Ah, ho capito, qual è il Mobicop? Sono vari modelli, quello è uno dei tanti. Quanti ne hai di questi baracchini? Baracchini normali, pensi di fare? Per sicurezza. Sì, sono praticamente 21 baracchini. Sono rientrato. Certo, ho sentito, cioè 21 baracchini, fica. 21 baracchini, sì, 21 baracchini, due portatili e tre stazioni base. E quanti? 21 baracchini, 21 baracchini, due stazioni e tre stazioni base e due portatili. Ma non avevo capito tre stazioni base, infatti non riuscivo a capire. Ogni tanto farli funzionare se c'è la possibilità, così non vanno in tilt. Ok, Eugenio, facci sognare. Sì, cosa? Allora, ti elenco la mia base. La mia base è una stazione base composta da un imitatore, il superstato di legno col microfono. Stop. Vabbè, allora vuoi iniziare da me? Io ho tre trasmesse. 1, 2, 3, 4, 4 alimentatori, 2 casse, un rotore d'antenna, due casse esterne, e vuoi iniziare? Due pappagalli e un canarino. Due rosme triangoli, mi sono dimenticato. E un commutatore d'antenna. E chi ne ha più ne metta? Io invece ho una stazione, una cagattina, due baracchini di quelli della mutua e un microfono da mano. Te li immagini, questo Riccardino c'ha più roba di me. Ah, se forse avete parlato sopra Eugenio o Natalì. Tu e Eugenio sei... Non lo sento, no. Io e Natalì, no, non lo sento. Non senti a Natalino, addirittura? Non lo sento, Natalino, non ascolti Eugenio? Sono basso. Oh, che strano, che pure... non è che c'hai grossi ostacoli tu verso di lui, Natalì, buh. L'ostacolo è che c'è un metro di tubo che spunta dal tetto. È quello l'ostacolo. Vorrebbe salire di almeno 2 metri, minimo. Sicuramente sì, sicuramente ne ha messo di vantaggio, però pensavo, cavolo, ho detto, sei pulito, non hai palazzoni, vabbè, forse c'è quel palazzo di San Arredi, l'unico, ma è abbastanza lontano. Infatti, ma è basta l'antenna. E Riccardino quanto ti arriva, Natalì? Riccardino mi arriva bene adesso. Bene quanto? Più di 9? Sì. Però una cosa, io stranamente ti sento più basso a te. La radio è chiara, forte, però il segnale è più basso. Non lo so, tieni conto che dopo il radiali io sto un ammasso di luci. Ho messo luci alle stantenne, non lo so perché. Dove sono i radiali e piene di luci. La salsedine, UG, la salsedine. Roberto, non lo chiedo, ma diciamo che non si portati in questi canali. Se li ho conosciuti? Perché li avevo, e persone che li ho contati, le fate migliori, e poi scoperti li abbiamo buttati. Ma te ne dico di cosa anche per ricordo, no, portateli, ne ho tanti io. Ho iniziato con un Handicom 50S della Intec, un 40 canali che non aveva nient'altro a parte i canali che apparivano, è zero. Ne ho due uguali, poi c'ho una LAN 38, altri due o tre ancora dentro la scatola, nuovi fiammanti, quelli con le antenne lunghe e telescopiche, tipo quello che mi hai dato tu. Poi cosa? Ne avrò un 6 o 7 di quei portatili. Sì, però beh, che io ero prima in Correx, alla fine che fine aveva fatto Nicola? Allora, Nicola dice che non stava entrando perché poi si stavano le belle giornate con la moglie, disse che si poteva uscire, stavano andando a farsi le passeggiate, però la notte ci ascoltava, da dentro casa riusciva ad ascoltarci, anche se non riusciva a trasmettere perché non si faceva sentire, però teneva in ascolto e si faceva compagnia con le nostre chiare o brutte o belle conversazioni, questo non lo so, sarà tra lui e giudicarle. E comunque ci ascoltava spesso, mi ha detto, per cui tutto quello che hanno detto che doveva partire a Coso, a Palermo, non è assolutamente vero, non si poteva muovere, infatti mi sembrava strano questa situazione. E oggi ha lavorato? Sì, ho fatto la notte, poi sono entrato stamattina a presto quella di Barcellona e poi quella di Civita Vecchia. Ma una domanda, ma quella di Barcellona quante volte alla settimana arriva? Allora, inizia, lunedì non c'è, martedì non c'è, mercoledì, giovedì, venerdì e il sabato. Cioè, quattro volte alla settimana arriva la nave? Sì, sì. Ma ho capito, cosa ne porta in questi quattro giorni se i turisti teoricamente non potrebbero entrare? Non c'è un sacco di merci. Ah, arriva merce più che altro. No, arrivano turisti, quando funzionava tutto bene portavano un sacco di gente, un saccaccio di gente, compreso un sacco di merci. Robello, sai cosa sta uscendo quel camion della Tirrenia? Stanno uscendo i miei pacchi che compro da Wish dalla Cina, mi dirottano in Spagna e poi dalla Spagna arrivano qui in Sardegna, sono tutti i miei pacchi qui in Spagna. I tuoi pacchi? Tutti i pacchi, tutte le cose che ho ordinato su Wish da Wish dalla Cina, poi le mandano in Spagna e dalla Spagna me le mandano, le portano in Sardegna e sono tutti i miei due pacchi, quei camion pieni sono tutti miei. Ah, così, ho capito, cioè, mi raccomando, quando li mobiliti, li movimenti, quei cose, quei container, attento, c'è un bel di roba del Riccardo, non li scuzzurare troppo. E cosa stai ordinando, Riccardi, dalla Cina? Cose molto difficili, oppure qualche volta ho ordinato cose interessanti, tipo ho ordinato un orologio, tipo un Apple Watch, una cosa del genere. Grazie, paghi solo la spedizione, non pagate solo la spedizione. Queste cose, anche per la macchina, io come ho detto paghi solo la spedizione, abbiamo comprato a comunque di roba strana alla Cina. Adesso ormai su AliExpress io sto ancora aspettando, però ho ordinato un orologio, io sono appassionato di orologi, forse a giugno arriva perché sono tempi lunghi, un orologio particolare. No, ho visto, li avete visti quelli su AliExpress, quei baracchini cinesi tipo sintonia continua che sono di nuova generazione, che sembrano dei computer bellissimi e costano sui 150-160 euro? No, li ho visti, anch'io sono un super appassionato di orologi. Vabbè, ricevitori a ce n'è. Tutto c'è, Natali Timone, le mani in capo, cosa c'è di apparecchiature HF pure, ti mette le mani in testa, ma prezzi, cioè un HF di qualità da 100 watt, un quadribanda, cosa del genere, ti costano intorno ai 400-350 euro, ma tu devi vedere quanto sono belli, non so come funzionano, però ho visto dei forum, io sono iscritto a dei forum di radioamatori e qualcuno ne ha parlato bene, sono delle belle radio. Anch'io sono... A me mi interesserebbe un ricevitore, tanto apparati HF non ne posso avere, qua è zona minata. E oggi tu sei appassionato di luci, più di me magari, no? Non vi credo. Non lo so più di te. Però ne ho tanti, ne ho veramente tanti. Io ne ho due, allora uno, vabbè, che l'ho cercato, l'ho trovato e siamo oltre, vabbè, di 1000 euro. L'altro lo stesso. Però la mia passione è Rolex. Io di orologi ne ho più di 300, per dire, però faccio solo meccanici, quarti ne ho qualcuno, dai, particolari, però quelli che tengo sono tutti quarti. Scusa, meccanici. No, io 300 non ci dico assolutamente, no, però mi piacciono un sacco, gli orologi mi piacciono troppo. E un altro punto mi metto a piangere quando ha chiuso la Rolex a Sassari. No, l'ha chiuso la Rolex, c'è ancora a Sassari. No, oh, che cosa ha chiuso? L'acqua non c'è più, ma c'è l'altro che l'ha preso, come si chiama? No, Rossetti, come si chiama? Bartoletti mi sembra, comunque ha riaperto in via Roma. Ah, in via Roma è adesso? Vabbè, ma i Rolex già si trovano, ma c'è molto, ma molto meglio del Rolex. No, vabbè, ma io ho una passione particolare la mia per Rolex. Poi ne ho tantissimi, sempre meccanici, ne ho qualche decina di quelle imitazioni di orologi prestigiosi, qualche Rolex pure, però di quelle imitazioni, quelli che valgono, quelli più belli sono tutta la linea Patek-Philippe, Vacheron Constantin, eccetera eccetera. C'ho delle bellissime riproduzioni. No, io no, le riproduzioni non ne ho. Ho degli Invicta, marca storica, conosci? Vabbè, il Victa è un marchio pubblicitario, poi ovviamente sono, ci mettono altre cose dentro, non esiste il Victa come, come marchio, è come quando vedi l'orologio Adidas o marchiato Benetton e cosa, e mettono movimenti della ETA, Citizen eccetera eccetera, Miotta. Oh, Robè. No, Robè, aspetta un attimo, non ho niente a che vedere con il Victa degli zaini, la marca di Victa è una marca americana. Sì, ma mettono movimenti, non costruiscono movimenti, i marchi storici che costruiscono i movimenti nel mondo ne saranno rimasti non più di 6 o 7, quelli storici. Poi ci sono quelli che su commissione costruiscono, la maggior parte di tutti i movimenti sono Miotta, della Citizen, quelli Sector, tutte quelle marche di lì che ce ne sono una marea, e che cazzo te posso dire, decine di marche. Poi ci sono la ETA, diciamo, è il marchio più famoso, parliamo di quelli commerciali svizzeri, e poi ci sono i marchi storici, che costruiscono solo movimenti, tipo il top sono i Patek Philippe, i Vacheron, quelli sono i marchi più antichi e prestigiosi, ma sono orologi, costano anche centinaia di migliaia di euro, quelli anche di più secondo cosa prendi. Montano come la Bulova, che adesso la stanno rilanciando, ma non esiste come marchio Bulova, hanno ripreso il marchio e ci mettono un movimento dentro della Miotta giapponese, o molte volte mettono qualche movimento della Zenith o qualche movimento della ETA, però chi costruisce i movimenti sono ben poche le case al mondo. Sì, vabbè, come ci sono anche orologio Ate che è Bulova, però quello che sto dicendo io è un marchio storico americano, esiste da anni e anni e anni. La Bulova come marchio non è nato proprio in America, però uno svizzero che poi si è trapiantato in America, all'epoca andava, quando c'era il discorso dell'era spaziale, era Bulova l'orologio dell'era spaziale con l'Accuton, è stato il primo orologio, diciamo, la via di mezzo tra l'analogico, tra il meccanico e il quarzo, avevano inventato quel diapason, quel sistema di controllo della precisione, è stata la prima la Bulova, e poi sono usciti tutti gli orologi al quarzo negli anni, vediamo, dal 75 in poi sono tutti nati dalla cosa, dalla Texas Instruments in poi, sono nati tutti i 6, eccetera, eccetera, sono tutti orologi al quarzo. Adesso li stanno riproponendo, la Bulova sta facendo degli orologi meccanici, con movimenti che mi immagino che se loro dicono movimento svizzero, ma bisogna vederlo, a prezzi molto molto competitivi, perché la Bulova prima faceva degli orologi e se li faceva pagare. Io ne ho uno della Bulova, anzi un paio ne ho della Bulova, e basta, subacquei soprattutto faceva come punto di cavallo in battaglia. Ecco, sei detto Natale, scusa? Non ho detto niente. Poi io ho degli orologi, diciamo, abbastanza interessanti, di quelli al quarto ho degli ultrapiatti, della Tissot, della Zenith, della l'altro che cazzo di marca, adesso non mi ricordo, e poi c'ho orologi molto antichi, cose particolari antiche. Ho capito. Comunque a me piacciono un sacco di orologi. Più grossi sono più mi piacciono. Vabbè dai, io vi saluto ragazzi, vi vado a mangiare, dai, ci sentiamo, ciao Jay, buona carica e buon tuppo, dai, eventualmente ci sentiamo domani se coincide, dai, se no quando sarà. Ok, ciao, avanti Riccardo e poi Natalino che salutiamo, per salutare a grande Eugenio. Nel caso ci sentiamo lunedì, ciao. Eia. Scusate un attimo, posso riprendere a Natalino che sono tutti artisti, che vado a bere, ci sono veramente. Ciao Eugenio, ci sentiamo domani a lunedì. Ciao a tutti. Buonanotte, ciao. Ciao Eugenio, ciao. Ah, c'era anche Gavino, scusa Gavi. Cos'è? Sei andato a vedere i fuochi d'artificio, così adesso? Eia, sì. E cosa sto festeggiando? È tutto chiuso, forse qualcuno. No, ma matrimoni non credo che ce ne siano, non se ne possono fare i matrimoni, perché qua a quello la Maison li facevano i fuochi d'artificio quando c'erano i matrimoni. Però non credo che adesso siano. Matrimoni ne stanno facendo, niente ne sapete. No, non pensano. Sarà qualche tuono, qualche lampo. Robert, ascolti, gli orologi automatici invece ne hai, Robert? Sì, ne ho tanti, ti ripeto, ne ho tanti, io sono appassionato da sempre di orologi, non per vantarmi, ma qualcosina la mia la posso dire, posso capire, c'ho tutte le attrezzature per aprire, piccole cose già le faccio, dai, ne capisco qualcosa, dai, sugli orologi, ti posso dire cosa c'è sotto, che tipo di movimento, se un movimento importante, eccetera, eccetera. Ok, sono tornato, Robert, ti volevo chiedere da prima una cosa. Dimmi tu. Ma come è possibile che AliExpress Express 20 Baofeng di quelli portatili, 192 euro. Ma cos'è, neanche 10 euro al petto? Ma tu vado a dire di che costino quelle apparecchiette lì? Se vai in Cina li pagherai 2 euro, 3 euro. C'è un mercato diverso, il prezzo di produzione è ridicolo, poi qua te li vendono 15 euro, 18 euro, non è che costano più di tanto. Vabbè, però dico, cioè, non costano neanche 15 euro, io pensavo che per essere cosa, per le UHS costava Ma ormai è tutto dentro un processore, prima per dire c'era un sacco di componentistica, adesso non c'è niente. L'ho portato, mi già lo dico anche a Gavino, lo sa proprio di me, in officina sta montando un autoradio a un'amica, mio fratello, un autoradio, tu devi vedere Gavino cosa c'ha questo autoradio, l'ha pagato 80 euro, completo di telecamera, navigatore satellitare e tridimensionale, Bluetooth, c'ha tutte le cose possibili immaginare, tutto touchscreen, e puoi fare tutto quello che vuoi con questo cavolo di televisico. Se tu lo vedi è un doppio DIN. La grandezza sarà 2 cm di spessore, lo apri dei beauty, non c'è niente, c'è tutto un coso, un processore, fa tutto di lì, c'ha l'antennina, le ha dato la telecamera, l'antennina del GPS, questo fa tutto, questo 80 euro finito di trasporto. Però le manca il DVD, Robè. Avanti il break. Ehi, ciao Claudio, ben sentito, riepiloghiamo, c'è Natalino, Riccardino e Gavino in domo di coso, di Massimiliano, che Massimiliano probabilmente o c'ha le mandibole impegnate o sta arrostendo, così è Gavino? No, sto facendo la doccia. Allora, vuol dire che questa volta si è salvato in calcio d'angolo. Vai Natalino, vai Riccardino. Ok, ciao Claudio, ben di nuovo. Comunque Robè, anche io non so come, perché voi avete antenne grosse, io con l'Intec, quello portatile, riesco a sentirmi ancora meglio del corso, più o meno alla stessa altezza, e si sente molto bene la radio, la radio è il segnale. Sì, vabbè, diciamo, sentire anche con una radiolina normale, se ti permette di ascoltare, se c'è quella banda, già ascolta, il problema è farti sentire, per farti sentire ci vuole trasmissione, ci vuole un'antenna un pochettino e ci vuole potenza. No, ma per la ricezione, infatti io quando ero lo sentivo, però non riuscivo a parlare con lui, comunque io non ho potuto portarmi anche quando magari e compro una. Se c'è un posto, tua nonna ha una ringhiera, ti prende una di quelle antenne di macchina con la magnetica che appoggi sulla ringhiera, qualcosina più di usare l'antennino del baracchio del portatile puoi andare, una prolunghetta ti metti, oppure ti prende una di quelle piccoline boomerang se c'è la possibilità, ma se ci vai poco fregatene, lascia perdere, tanto c'è la stazione a casa tua. Boomerang o no, ha bisogno del piano di massa? No, la boomerang la leghi nella ringhiera, già va bene, c'ha un radialino e un ostello verticale a voglia. Certo, se sei chiuso in mezzo ai palazzi non è che vada da nessuna parte, ma se ti sentiamo con l'antennino di gomma, figurati se metti quello a qualcosa di più già ti sentiamo. Vabbè, voi non mi sentivate che eravate all'altra parte, mi sentivano solo quelli e boh, io sono un po' di giorni che non lo sento, l'ho sentito l'altro giorno di sfuggita, non lo so, forse è impegnato in qualche cosa, non lo so. Ok, vediamo un pochettino, Gavi, ma tu perché anche tu collezionista sei di Rulus? No, a me piacciono, no, mi piacciono, ne ho pochi, ma anzi prima mi piacevano di più, li usavo di più, adesso non più come prima, capito. Io è già tanto più. Guarda, io dico una cosa agli orologi, ne ho tanti, tanti di orologi che raramente li indosso, ma proprio perché ci tengo. Io ce n'avevo uno bellissimo subacqueo, un millimetri, che era all'epoca era il top degli orologi, su, come dei subacquei, erano dei pochi sempre al Caribbean della Philip Watch, erano i pochissimi orologi che riuscivano a scendere a millimetri. Adesso vabbè, non è impossibile, ma prima parliamo negli anni 70-80 erano pochi gli orologi che scendevano a millimetri, che avevano 100 bar di pressione. Quello lì me lo mettevo, poi dicevo cazzo, devo stare attento come ti muovi. Io mi ho cambiato almeno 6 di quegli orologi della Casio. Io utilizzo normalmente l'orologio della Casio per il lavoro e molte volte sto con quello, il classico orologio Casio, il più economico di tutti, quello che pesa 10 grammi, che è l'orologio che fanno tutti gli attentati, e li mettono nei coso, nei timer, come timer. Infatti ho visto un programma alla televisione, erano tutti con quel, dice l'orologio dei terroristi, perché riesce a passare nei metal detector, è tutto in plastica, in gomma, non va nulla, c'ha solo appena appena il fondello e una lamierina di coso, di metallo, tutto il resto è plastica, per cui riesce a passare nei metal detector. E quelli ne ho cambiati 5, ma non perché si sono rotti, perché si consumavano i cinturini. Questo è il quinto o il sesto che utilizzo. Ma quali sono quelli LCD? Chiaramente no. Ma il discorso è anche questo, sì, ne ho tanti, ne ho diversi orologi, ma il discorso è questo, che devo sempre cambiare batteria, capito? Le batterie mi sono scocciato con i fitti di cambiarle, capito? Allora, avete parlato uno sopra là, io ho sentito un pezzo a te che deve cambiare la batteria, però Riccardino, siccome è più basso di radio, anche se è più forte il segnale, non ho capito quello che ha detto. Allora, facciamo un attimino di pausa. Il problema del quarto è quello lì, le batterie, anche se ci sono quelli nuovi della Citroen che hanno il moto perpetuo, che diciamo che si ricaricano anche col movimento, hanno un piccolo motorino dentro, una piccola, diciamo, chiamiamola linea che ricarica la batteria, un accumulatore in quel caso. Cosa hai detto tu, Riccardino? Non so se me l'hai visto al posto il sensor, che è praticamente, adesso c'è stato il modello, che è l'unico che ho di orologio, ne ho passati tanti di orologio, io di solito prendo orologi con quelli lunghi, quindi per quelli che non sono in gomma, perché ciò che anche se lo lascio in un punto tra te, se per sbaglio, che mi stava dando fastidio, lo appoggio un attimo dentro casa, un po' che me lo mangiano, perché tipo il caso me l'ha mangiato il cane. Addirittura, cos'è? Non ne la mangia. No, io quelli col cinturino in metallo non li porto in officina, soprattutto perché sono pericolosi, poi ti agganci, fai. Credi, questo qua è talmente sottile, prende i colpi che vuoi, schizzi di qualunque tipo di roba, non li fa niente. Al limite, se dovesse fare qualcosa, me ne compro un altro. Avanti, Massimiliano. Scusami, se... Sì, sono orologi da battaglia, li chiamo io. Cioè, chiaramente sono in gomma, sono leggerissimi e non ti accorgi neanche di averlo. Do la parola a Claudio, se c'è ancora. Ah, scusami Claudio, avanti Claudio. Quelli li facevano in edicola, ma sono tutti movimenti al quarto oppure sono movimenti fittizi che non funzionano. Quello delle ferrovie sono i Roscoff o i Villerferri, ce n'è un paio di quelli, un paio di Roscoff e una cipolla, ne uno in argento, un altro argentato, diciamo, laminato argento, e un altro Villerferri. Ma le cipolle non è un orologio che piace più di tanto, a me piacciono i crono, oppure quelli con i complicati che hanno le fasi lunari, il calendario completo, eccetera, eccetera. Ora, beh, comunque, vabbè, sono orologi che ho io, se conoscevi la collezione 230. Sì, Tecron ne ha fatto tantissimi modelli, Sector, No Limits, c'era la pubblicità, facciamo vedere tutti la pubblicità esatta tanto, però sono orologi classici, è un marchio così fittizio, la Sector montava movimenti della ETA, non è un marchio storico, nel senso come la Braille, lo stesso, quel millimetri che c'è della Braille, il Manta, però non è un movimento cosa, è un movimento della ETA. Sono pochi, ripeto, le case costruttrici che producono anche i movimenti, ma sempre meno. Ci sono quelle storiche, che poi ci sono quelle che hanno chiuso e li passano agli altri. Io ho capito, io sono quelli di orologi che si stanno per me, perché voi avete gli orologi, vabbè, quindi così, come ho detto, io sono un orologio a fine al posto, e quindi ne basta così. Se dove dovete fare collezionismo, a meno che non sia un quarzo particolare ultra piatto di quelli di tendenza, perché oggi la gola mi fa male, con forme molto particolari, diciamo inusuali, perché il quarzo ormai non ha futuro, non che non c'è quelli ultra poi piatti anni 80, tipo il Tissot, il Longin, che quelli diciamo hanno una discreta quotazione, e se no andate solo sui meccanici, possibilmente automatici, e se riuscite a trovare i complicati o i crono è ancora meglio. È inutile puntare su marchi esageratamente importanti, perché quelli costano un sacco di soldi, perché la gente poi si punta su Rolex convinto di aver trovato il top del top, invece ce n'è, ma ce n'è molto ma molto meglio del Rolex. Tra l'altro la Rolex movimenti non li fa neanche lì, si faceva su disegni loro e se li faceva costruire, solo la gente, come dici tu, parli di Rolls Royce, però ci sono altri marchi che sono anche meglio della Rolls Royce, degli artigiani che costruiscono dei prodotti molto ma molto più importanti del Rolex, come che paragoni la Ferrari con la Fiat. Ci sono dei marchi storici svizzeri che cacchio, sono degli artigiani che fanno pochissimi esemplari al mondo, all'anno, e sono fatti per persone super ricche. Vabbè, e i Princeps, li conosci gli orologi? Non so se c'è ancora quella marca, facciamo tanta pubblicità. Sì, sì, i Princeps, è lo stesso come può essere il Secro, sono dei marchi fittizi che non esistono, sono la stessa Philip Watch, è un marchio che è nato da due persone che hanno messo dei movimenti fatti da altri, anche se è un marchio abbastanza vecchio la Philip Watch, diciamo abbastanza prestigioso, perché sui subacquei la Philip Watch ha detto la sua, un sacco di record mondiali li hanno fatti con gli orologi sponsorizzati dalla Philip Watch, ma ce ne sono una marea di orologi nautica, e ce ne sono centinaia e centinaia, sono tutti marchi che non esistono. Ti ripeto, attualmente i marchi che costruiscono movimenti senza cercare il coso, quelli diciamo importanti svizzeri che hanno una storia, ce ne sono pochissimi. C'è la più importante è la Miyota, la giapponese Miyota, che costruisce marchiati Citizen, diciamo la maggior parte, però li ha passati a tutti. E poi c'è la ETA, la Svizzera, che ha fatto poi la Swatch, ha fondato la Swatch, da lì è nata la Swatch e ha fatto gli orologi commerciali e ha iniziato a fare gli orologi quelli in plastica e ha bombardato il mondo. Di lì qualche modello c'ha ancora qualche valutazione di quelli, però devono essere dentro la scatola, erano quelle scatole trasparenti e non indossate, così tengono un po' di mercato. Per il resto i quarti non valgono niente, a meno che non c'hai diciamo quelli antecedenti proprio al quarzo, che ti parlavo dei Bulova-Yakut, quelli che erano col diapason, ed era una via di mezzo tra l'analogico, il meccanico, chiamiamolo, e il digitale. La prima che l'ha fatto è stata la Bulova, quelli sono ancora, tengono mercato, se no bisogna andare sui meccanici, e se sono complicati, anche se magari è un marco poco conosciuto, ma se c'è un orologio con un cronografo, qualche centinaio di euro minimo lo vale, minimo, se funzionante, un qualunque cronografo. E l'Italia, quanto riguarda orologi, che marchio ci abbiamo? Allora, il marchio storico italiano, che lo utilizzavano i sommergibilizi e quelli che mettevano in mazzo, i sottomarini, quei maiali, non so se li conoscete, quelli tipo siluri che andavano a mettere bombe, erano le officine Panerai di Firenze. Quello è un buon prodotto in Italia, e non dico eccelso come qualità, però sono degli ultimi prodotti. Il Luminor della Panerai era uno dei primi orologi subacquei, ci avevano messo quelle cose fosforescenti, Luminor proprio altamente radioattivo e tossico, infatti io ne ho uno in imitazione della Luminor Panerai, c'avevano un sistema di chiusura della corona di carica, perché allora erano manuali, adesso stanno facendo automatici pure. L'hanno rilanciata la Panerai, poi ci sono degli artigiani che costruiscono molto bravi e molto apprezzati nel mondo, però non sono marchi conosciuti dalla maggiore, però già c'è qualcuno che il top sono sempre le manifatture svizzere, il numero uno in assoluto è la Patek Philippe di Ginevra, è lo plus ultra degli orologi, fatto degli orologi che ce ne sono anche da milioni di euro, esemplari unici, complicazioni allucinanti, con calendario perpetuo, fasi lunari, fase del sole, eccetera eccetera. Quell'orologio è una cosa da fantascienza. Io addirittura, se volete ve lo racconto, se vi interessa, se no te lo vedo da raccontare di lui. Roberto, devo andare in bagno, scusa, continuate, ritorno subito. Se interessa l'argomento, posso parlare per ore di orologi, però non è detto che interessa a qualcuno, se volete informazioni ve ne do. Ok, vabbè, un attimo, mi racconti tutto. tutto, però adesso devo andare un attimo in bagno. Eia, se no te la fai addosso. E tu Claudio, appassionato di orologi? Bella Vega. Ah, Omega, cavolo, Omega è un bel marchio. Sì, cavolo, ce n'è un paio di quelli. Omega andava tantissimo negli anni del dopoguerra, dagli anni 50 in poi, poi quelli sono usciti quelli Speedmaster, quelli lì, perché li pubblicizzavano nella Formula 1, nelle gare di Formula 1, l'Omega era l'orologio ufficiale delle gare, ha fatto un sacco di cose, sono gli ultimi orologi, ma ce ne sono tanti. Poi in Italia c'era anche la Vetta, un buon prodotto, anche se poi non esiste più. Ce n'erano, diciamo, marchi italiani, un po' la Lanco c'erano, ma non esistono più adesso di questi. L'unico che è rimasto, adesso parliamo di quelli un po' più conosciuti, le officine Panerai e basta. Ma Longines, Revue, Tissot, di questi ricommercializzati, Avulia, sono Zenith, sono grandi, grandi marche storiche, non a livelli di quelle che ho nominato prima, però sono delle grandi marche. Guardate quell'orologio che c'ha quel poverello di Conte al polso, vi rendete conto quando parliamo di orologi, la Bulova era. E poi ci siamo dedicati a un grande orologio, un bello orologio, diciamo, che si vede qualcuno in giro, il Breitling, un bellissimo orologio di grande qualità, sempre a livello di, parliamo di orologi paragonabili ai Rolex. Se andiamo su altre cose c'è molto, ma molto di meglio. Sì, l'hanno usato anche coso, un po' di tutti, la RAF, l'esercito inglese lo davano i servizi, quelli SAS dei coso, dei servizi, i cursori della marina inglese usavano il coso. Io ne ho uno, un bellissimo Breitling, però in imitazione, che addirittura quelli avevano il trasmettitore per dare segnali di soccorso quando si buttavano, affondavano l'aereo, per dire, succedeva l'incidente, cadevano, riusciva a trasmettere su una frequenza dedicata per 3 giorni consecutivi un segnale, tipo un SOS dava, e riuscivano a ritraggiare il pilota che poteva stare fino a 3 giorni in acqua. Si tira fuori, c'è una specie di ghiera, non ghiera, chiamiamola di corona, che tu lo sviti, da lì usciva un'antennina e trasmetteva per 3 giorni consecutivi sulla frequenza, mi sembra 473,5 kHz, un segnale ripetitivo, ed era un segnale di soccorso, e ti rintracciavano con i radiogoniometri, eccetera. Sì, forse si è allontanato. Gabi, ci sei ancora? Boh, che è rimasto qua? Sto sempre io in ascolto. Ah no, ti abbiamo rilassato, Gabi, pensavo ti fossi allontanato. Per cui dico, se dovete tenervi orologi, anche di parenti, di nonni, cugini, raccattate tutti gli orologi meccanici, qualunque esso sia. Poi magari sarà, se uno è più fortunato, ne trova qualcuno un po' migliore. Io mi ricordo sempre la madre di un amico mio, gli ha portato il figlio un Eberhard, non so se li conoscete gli Eberhard. No, io no. Ho evitato una bomba. Cosa è successo? Sono tornato, stavano per lanciare la bomba, la terza guerra mondiale, e non l'hanno fatto, l'ho scaricata prima io in bagno. Ah, così, per quello che si sente questa puzza, c'è una nube tossica. No, stavo dicendo, gli Eberhard, li conoscete gli orologi? No, io no, Robert, non li conosco. A proposito degli orologi, mi sono ricordato che c'avevo un Maserati orologio, poi non so di costruzione quale, è automatico, Robert, un bel carino. No, Maserati è sempre lo stesso marchio fittizio, però c'ha un bel movimento, un bel orologio il Maserati. Cosa c'è, quel quadrante nero, scuro, blu scuro? No, no, no, c'ha il cinturino amaranto, e in effetti è dorato come cornice, diciamo, eh. Ma c'è ancora quell'orologio? Certo, sì sì. No, un bel orologio quello lì, quello c'ha anche un bel movimento automatico. Sono un orologio, diciamo, di nuova generazione, però monta un buon movimento, bello. No, stavo dicendo l'Eberhard, un marchio abbastanza famoso, di quelli nato mi sembra all'inizio del Novecento come marchio, un orologio abbastanza buono, diciamo. E c'ha la scritta Eberhard leggermente storta di traverso. E quando l'ha visto la madre, mamma mia che brutto, questo è un bidone, e hanno messo la scritta storta, e gliel'ha rifiutata al figlio, poi gliel'ha preso, e quello era un orologio, costava assurdo. Oh, ti volevo chiedere, Robè, ma vero non è italiano che quadro, Non ho capito, non è italiano? È italiano l'orologio Pisquadro? Sono sempre nomi così che non esistono pubblicitari, come fanno l'orologio Dolce Gabbana, l'orologio Armani, l'orologio Winchester, sono marchi pubblicitari che io mi posso fare un orologio, lo chiamo Roberto e ci metto un movimento Riccardo, per dire, è così, non sono solo, c'è cioè una ditta grossa, la Adidas, la Nike, ci mettevano gli orologi e ci mettevano il movimento che volevano, cioè questa ditta che metteva gli orologi, che faceva i movimenti, ti faceva su una cassa come vuoi tu, gli davi un disegno ci mettevano le marche Adidas e ti mettevano il movimento standard della Miota o della Etta o Valier, vabbè Valier non li mettono perché costano sud. Sono solo marchi così pubblicitari, non esistono. La Bulova, che la Bulova ha preso i diritti, chi l'ha rimesso in circolazione, perché la Bulova è fallita da tanti anni, era stata anche rilevata da almeno 20 anni che non esiste più, adesso lo stanno ricommercializzando con prezzi molto ma molto importanti, nel senso buoni, favorevoli, e stanno dei bellissimi orologi automatici, loro dicono che è un movimento svizzero, questo bisogna vederlo, perché vari il movimento svizzero però fatto in Cina, quello lì era tutto da capire. E con quel prezzo non trovi niente di meglio in circolazione, perché c'è la Citizen, fa dei bellissimi orologi al quarzo, però sono sempre orologi al quarzo, questo almeno ti dà un movimento meccanico e costano più o meno quanto un Citizen, diciamo bello, però al quarzo. No, come al quarzo o di quelli vecchi? Un bulova dorato. È proprio quello che ti ho detto, Ah, non è un subacco, quindi è un orologio elegante, dai, di quelli, ma da donna o da uomo? No, da uomo sì, è uno dei più eleganti. Ah, sì, quindi c'è la cinturino in cuoio sicuramente, dai. No, no, io bulova normalmente sono quelli robusti, in acciaio, grossi, casse enormi, cristallo, come si chiama, vetro zaffiro, eccetera, eccetera, corona, casa vite, fondo della vite, eccetera. Diciamo, la bulova faceva normalmente quel tipo di orologio, anche se ha costruito orologi ultra piatti anche lì. La società di calcio? Voi avete la società di calcio e gli avete dato il nome da un camion che stava passando e non mi ricordo il nome, la ditta delle bici. La ditta delle biciclette si chiamava e si chiama ancora Rider Triestina. Rider con la W, la bicicletta ce l'ha Eugenio, sono delle bellissime bici, pluricampione del mondo, di altissima tecnologia, belle. Io non è che me ne intendo di biciclette, però so quando una cosa è fatta bene me ne accorgo un pochettino. Ho capito, sì, perché non c'è, quindi racconto poi le cose che mi stanno parlando. Comunque, Roberto, dove si chiede? Uscendo da ogni parente di non se ne parlato di me. Comunque io all'inizio da radioamatore che era prima 14 anni da facendo, però non posso sapere, non mi attivo finché non ne ho 16 e devo andare ed usare il nome di mio padre che dovrebbe fare il radioamatore, ma se mio padre non è radioamatore che cosa dovrei fare? No, tu la patente devi avere 16 anni per prendere la patente, non puoi prendere, anche se è successo che una ragazzina a 15 anni gli hanno fatto prendere la patente, è stato un caso unico, non so se era in Puglia o in Calabria, quest'anno proprio, devi avere 16 anni, mentre i CB bastano 14 anni, per essere SWL se vuoi l'attestato, adesso non è necessario avere l'attestato, però se uno lo può anche avere, di lì non mi ricordo se 14 o 16, ma credo 14 anni. No, ma stavo dicendo tutti i fondi, prima di 16 anni, 14-16 anni. Per prendere la patente dicevano 16 anni, poi potrebbe essere permesso, ma ne dubito, parlare con un operatore con la patente che ti fa parlare a te, però non insisto di questo, non sono sicuro, la patente deve avere 16 anni per legge, e te lo garantisco al 100% perché è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, però c'è stato un caso, non ho capito per quale motivo, forse perché il padre era un radioamatore che è morto, non so che cosa, di questa ragazzina che a 15 anni gli hanno dato la patente, però caso unico e boh, non ne ho mai sentito prima di sé. Ho capito, no, perché vabbè, vediamo se c'è il primo, però diceva questo, che la puoi prendere 14-15 anni e giro, puoi andare o da un radioamatore che ti può usare, come stavi dicendo tu, la quotazione, il suo nominativo mi sembra, o le sue così, oppure puoi andare in un punto tipo di radioamatori, dove si raccontano i radioamatori. Ah, forse tu stai dicendo un'altra cosa, tu in un'associazione di radioamatori, anche se sono a 16 anni, c'è un nominativo, la stazione di radioamatore c'è un nominativo, perché dava anche il nominativo alla stazione di radioamatore, e tu per dire stai facendo il corso per prepararti come radioamatore e fai le prove di trasmissione di dalla stazione di radioamatore, sì, così è possibile, ma no, il nominativo te lo danno dopo che hai superato l'esame, non puoi avere tu un nominativo. Se vai in una stazione di radioamatore che ha un nominativo preposto proprio uguale, non so, non mi ricordo come finisce, per dire IS0, e poi c'è una lettera dopo per le stazioni, tipo quando sei in barra nautica o in barra mobile, c'è un coso, un nominativo particolare, o come un punto ripetitore, quando si trasmette in un punto ripetitore ci sono dei nominativi particolari. Se sei in un'associazione tu partecipi alle sedute di coso, di prova eccetera eccetera, e lì puoi trasmettere, di quello non è dubito, però tu non puoi avere un nominativo se non hai superato l'esame di radioamatore. Aspetti, io con quello che sto leggendo è tutto male. Infatti è così, la patente del radioamatore si può conseguire prima dei 16 anni. Peccato che poi bisogna aspettare quell'età per avere l'autorizzazione generale, quindi fino allora il ragazzo di 16 anni dovrà operare come secondo operatore dalla stazione del padre o con il nominativo, oppure che si può andare in un centro dei radioamatori. Guarda, io questo me lo stai facendo leggere per la prima volta, c'è scritto così, mi stai leggendo, infatti è così, la patente del radioamatore si può conseguire prima di 16 anni, peccato che poi bisogna aspettare quell'età per avere l'autorizzazione generale, quindi fino allora il ragazzo di 12 anni dovrà operare come secondo operatore della stazione del padre, che è nominativo del padre. Questa mi sembra anche una cosa illucida secondo me, perché quando uno parla, un radioamatore della stazione di un'altra persona deve dirlo, lo deve giustificare con un altro, con un, cioè, a fine conversazione. Qua sta dicendo delle cose, io non ho mai sentito, dovrebbe informarsi meglio. Poi c'è altro, c'è anche altra variante di roba che ho aperto, però questa che lei è del 2014. Sì, no, l'ho letto, me l'hai mandato il messaggio, però ti ripeto, non sono informato profondamente, però mi sembra molto strana una cosa del genere, che tu a 12 anni puoi andare in una stazione di tuo padre che è radioamatore e con nominativo di tuo padre, non lo so, mi sembra molto illogica la storia, è come che io che vado in una stazione di un altro che sono radioamatore e parlo con nominativo di un altro, non ha una logica. Poi, siccome ce ne sono tante di leggi strane, puoi darsi pure che sia così. Ok, Claudio Ramuro Savani. Beh, per ascoltare puoi ascoltare quello che vuoi, nelle frequenze radioamatori ideali puoi ascoltare tutto. Non ho capito, ti hai interfacciato il computer per che cosa? Per i CW? No, vabbè, io CW ho capitato così di sentirli, ma mi sposto. È un po' monotona la cosa perché sono molto lunghi le conversazioni, cioè prima di dire una parola ci impiegano 10 minuti. Non c'è niente secondo me da imparare, se invece ascolti in coso, in fonia c'è tanto da imparare quando ascolti certe persone assolutamente competenti e preparate. Io molte volte ci vado nelle HF e rimango a bocca aperta, certi discorsi di cose tecniche, ma assolutamente evolute. Poi ci sono anche radioamatori che vanno a farsi le chiacchierate e si raccontano che sono andati a fare il bagno per i fatti loro. Poi ci sono i veri radioamatori, quelli che parlano di antenne, di collegamenti via satellite, collegamenti via luna eccetera eccetera, di lì c'è tanto da imparare. Robè, ma l'hai vista la foto? Quello che mi hai mandato, quel decreto, guarda, sinceramente lo vedo per la prima volta con te, non sapevo, speriamo che sia vero, magari mi informo, che un ragazzino anche di 10 anni, sicuramente quello che c'è scritto di lì, se c'è il nominativo può andare a parlare in una stazione di anche se non ha fatto l'esame. Non capisco come fa a avere il nominativo se non ha fatto l'esame, non riesco a capire la logica. Oh ragazzi, io vi saluto, ci sentiamo alle prossime, dai. Saluto Riccardo, Claudio e Roberto. Ok? A domani, dai. Ciao ciao. saluti a Massimiliano pure, dai. E io, ciao Gabri, ben sentito, dai, è sempre un piacere, buon tutto, buon corretti, buona carica se devi farlo e buona giornata per domani. Non ho capito, c'è Massimiliano, riprende Massimiliano o che cosa? No, vi saluto, io cosa riprendo? Ah, ma tu devi andare a mangiare ancora Massimiliano. Ok, buonanotte a tutti, dai, ciao ciao. Ok, vi saluto anch'io, vado a mangiare la pizza e ci vediamo domani. Se... ancora io tanto ho fatto le ore 5 questa notte, sono in cerca di propagazione, come ho detto, come sempre, metto il pisano pronto e dormo. Cacchio, troppo forte Ricca, troppo forte. Vai Claudio. Ciao, mi sono dimenticato di salutare Gabino, Pearson. Ciao Gabino, ciao Bulldozer, ciao Roberto, ciao Claudio e a tutti gli altri in ascolto, tanto non so chi mi ascolto, e ci vediamo domani. Ciao e arrivederci. Non mi ricordo, no, come ho detto, non entro più su questo canale, ci vediamo domani e ecco la mia preparazione che sto per mangiare la pizza. Di lusso Ricca, troppo forte, ok, va benissimo, non fare troppo tardi però, mi raccomando, se no domani non sei in forma per i collegamenti QSO locali, dai, ciao, buon tutto, buona pizza, e mi raccomando, dalle un pezzo anche a tua sorella, non te la mangiare tutta tu, ciao ciao. Basta che ci metto la cipolla sopra, lei non mi piace la cipolla, la metto sopra e sarà. Ah così, ok, vai Claudio. Ehi, quel discorso che hai fatto poco fa non ti stavo seguendo bene perché mi è arrivato il messaggio di Riccardino del discorso di ascoltare, cosa stavo dicendo, delle bande HF, cosa hai detto? Sì, tu c'hai il modo di modificare la chiavetta, perché io ce l'ho una di quelle RS32, di quelle chiavette lì, però non mi sono mai messo a toccarla io, perché quella puoi fare un bellissimo ricevitore, mi può fare da 500 kHz fino a 1700 dovrebbe arrivare. Una domanda, ma tu dove c'è l'attacco per l'antenna, diciamo l'antenna sua, ci attacchi l'antenna alla Mantova, quello lì, ci hai fatto il collegamento? No, no, non lo conosco, il CDR Shark già lo conosco anche io quello lì lo faccio con un altro sistema, però no, ma tu sai farla la chiavetta, se ti do la chiavetta sei in grado di installarla tu, ci vuole, facciamo sul dischetto, come il programma di installazione, c'hai sul dischetto o come? No, no, guarda, io la dovevo acquistare, adesso vabbè ho visto un bel sistema, diciamo la logica è più o meno come quello, stavo valutando se comprarlo, costa sui 250 euro, è una scatoletta, diciamo doppio ricevitore, addirittura può funzionare due ricevitori in simultanea su due frequenze diverse ed è bello anche per quello che interfaccia al computer, è bello, una cosa spettacolare, ho visto tutto il promo, c'è il video su YouTube eccetera eccetera, però l'idea mia prima di iniziare era prendere una di queste chiavettine, però c'era qualcuno che dice no, la dobbiamo vedere fare, ma se stai parlando si può fare via software senza ponticella niente, tu riesci a farlo, dovrebbe essere quella lì, al 99% è quella lì, ce l'ho da un po' di anni io questa chiavetta, ma tanti anni, mi saranno almeno 7 anni buoni ce l'ho io. No, non è così, la mia RS2032 dovrebbe essere. Quello che volevo dire, naturalmente ti appare tutto lo schermo, pieno schermo, ti appare analizzatore di spettro, forma d'onda, tutti i tipi di emissioni, eccetera, eccetera. Quello lì, come che sia un ricevitore professionale. Sì, sì, no, quello lo conosco, il CDR Shark lo conosco, lo utilizzo io. Io mi interfaccio con dei coso remoti, dei ricevitori remoti, ce ne sono a Roma, ce ne sono 3 o 4, a Latina, e poi c'è quello grosso, quello olandese, che è uno dei più importanti, e lì ti faccio tutte le bande, dai 160 metri fino ad arrivare ai 10 metri arriva, c'è tutto. È interessante perché c'è una marea di sistemi di filtraggio, di SP, di cose, è bello, figurati adesso. Quindi dimmi una domanda, visto che sei più aggiornato di me, è necessità di antenna per fare l'installazione di questo programma o basta mettere la pennina sul computer? No, forse non mi sono spiegato, per installare il programma di funzionamento non è necessario avere il computer attaccato all'antenna, c'è bisogno di avere il computer sull'antenna o basta la chiavetta senza antenna? Guarda, una di queste giorni ci organizziamo, magari mi avvicino di lì da te o di tu, mi porto sul computer con la chiavettina e mi dai tutte le indicazioni, magari se riesci a installarmelo direttamente mi fai un grande favore, perché io sono appassionato di radioascolto, è la mia passione principale, dai satelliti fino alle radio normali. Il computer che cosa? C'è Windows 10, c'è l'ultimo, anche se è una grande cagata. Sai che c'è forse qualcuno che vuole entrare, avanti chi è? qualcuno che non sta uscendo. Chi è avanti? Chi è avanti? Ci sono due segnali, uno 920 spaccato, muto, che è frequentare avanti, e un altro più basso. Stavo dicendo, l'installazione di per sé quanto tempo ti occupa? No, lo sai perché, se è roba veloce porto due computer, e così me ne faccio uno nel computer grande e l'altro in quello più piccolino, e quello ce l'ho sempre qua in stazione. Sì, sì, no, molto interessante, dai. Io stavo cercando uno che lo sapesse fare, io non ero all'altezza, invece tu mi stai dicendo che si può fare direttamente via software, quello è molto interessante. Sì, sì, no, interessante, dai, mi stai dando una bella notizia, dai, è una di quelle cose che ho sempre cercato di fare e ti risolve tanto il problema. Il display che ti appare, il monitor, diciamo, fittizio che ti appare è a colori o in bianco e nero? Ora vengo a romperti le scatole, dai, mi stai attizzando, come si dice. Sì, sì, infatti il limite era quello lì. No, no, interessante, molto interessante, lo faremo quanto prima. Cosa ti volevo dire? Io ne avevo uno, forse c'è ancora il dischetto, me l'aveva dato Franco Delta 1, stiamo parlando di 15 anni fa, quello era, diciamo, uno dei pionieri di quel sistema lì, quel programma, non mi ricordo come si chiamava, forse ce l'ho ancora, c'era ancora Windows 95 o XP, adesso mi ricordo, sì, però forse XP c'era, e addirittura quello c'aveva anche l'oscilloscopio, potevi vedere le forme quando sintonizzavi una frequenza, con l'oscilloscopio vedevi la, come usciva la modulazione, tutto era veramente carino, però questo stai dicendo tu, l'ho visto in funzione, è spettacolare. C'ha un sacco di cose in più, molto bello. Ma in ricezione e trasmissione sta parlando, scusa, cioè utilizzi l'interfaccia del K come ricevitore e vai sul computer e da che uscita li prendi? L'uscita delle cuffie. Allora, col TeamVoodoo, che è una radio analogica, non lo so se si può fare, perché un segnale analogico ci vorrebbe un transformer, diciamo, che te lo trasforma in digitale. Io l'uscita dietro, posteriore del K, con l'interfacciata, l'analizzatore di spettro e all'indicatore di livello, però sto utilizzando il segnale analogico, mi dà la cosa, però trasformando con dei segnali digitali ci vorrebbe un apparecchio, un decoder, diciamo, qualcosa che te lo faccia, mentre il ricevitore, la R3000, quello c'ha l'uscita RS232 dietro, quello che c'ho di ricevuto. Sì, sono i segnali digitali, sì, sì, non li riesco a codificare, vabbè, non mi sono mai messo, non mi sono mai interessato, so che ci sono dei sistemi di codifica. Allora, probabilmente succede così, che tu usi l'uscita, modo le cuffie, l'uscita stabile a 200 mV da dietro dell'apparato, lo mandi al computer, il computer dall'ingresso, probabilmente utilizzando l'ingresso microfonico del computer, te lo trasforma in un file digitale e da lì lavori. Non lo so, io non sono aggiornato da quel punto di vista, però io sento sempre qualcuno che vuole entrare o che ti sta disturbando, non so chi sia, avanti, chi vuole entrare, c'è un po' di gente sicuramente che sta ascoltando e se volete entrare, entrate, tanto non penso che ci siano problemi, chi vuole entrare è ben accetto. Ok, facciamo un attimo un secondo di bianca, vediamo un po', se non riprendi tu Claudio. Tu non hai idea cosa ho fatto io, Claudio, con i satelliti, ero un pioniere, adesso la radio è molto più semplice col computer, ma con i satelliti era una cosa spettacolare. No, no, io parlavo di cosa, bello, interessante anche quello, il meteo, stato collegati a satellite meteo, satelliti, ci sono quelli italiani nuovi che c'hanno dei satelliti a bassa cosa, a bassa quota italiani, che quelli ti danno un sacco di informazioni su sismici, eventi sismici e cose del genere, e tante cose anche che non si possono dire, diciamo. Ok, no, io parlavo satelliti, ricezione via satellite, diciamo utilizzando le parabole, non parliamo in ambito di coso radio, sto parlando di ricezione di segnali televisivi, quando era ancora alle albori la televisione satellitare, la ricezione, parliamo commerciale, poi prima di me, 20 anni prima c'erano già dei satelliti, non ho inventato niente, però quando io, non so se te l'ho già detto, quando non esistevano ancora le IPTV eccetera eccetera, io mi divertivo a guardarmi le partite cercando i fili di trasferimento, vedevi i collegamenti esterni della Rai, di Mediaset, vedevi adesso si collega da Ascoli Tonino Carino, e tu lo vedevi, lui era seduto in tribuna fumando per i fatti suoi e c'era l'immagine ferma, lui guardandosi la partita, fumando, facendo quella, poi quando diceva adesso si collega Tonino Carino, tu subito lui si metteva a posto, si metteva in ordine e andava in coso, la CNN, cioè io sto parlando di 20 anni fa questa storia, di più pure. cacchio, 25 25 anni fa siamo qua. Guarda, adesso mi ho scaricato il programma, si chiama It's Live Now, e questo è in tempo reale, ti appare proprio esattamente così, ti dice a che ora ti passa sopra, tra quante ore passa, c'è un cronometro. Aspetta, te lo dico in diretta, scusa, ma ti fa vedere la linea dell'orizzonte, allora c'è, segui l'ISI, l'ISI è bloccato sulla mappa, aspetta, l'ho bloccato, prospettiva della mappa, mostra le informazioni dell'ISI, linea dell'orizzonte, ti fa vedere addirittura anche tridimensionale dove lo vedi in questo momento l'ISI, in che posizione è. Allora ti dà anche latitudine, longitudine e altitudine, adesso è a 430